America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. Dunque, la borsa, l'indice Dow Jones ha superato quota 15.000, quindi non soltanto nuovo record, ma una barriera psicologica importante che è caduta. Abbiamo visto frenetici gli operatori di borsa agitarsi sul floor del New York Stock Exchange e li abbiamo visti correre, perché qua in America il tempo è danaro. Ma l'altro giorno all'Istituto Italiano di Cultura abbiamo avuto un grande intellettuale italiano, Claudio Magris, che ha tenuto una conferenza sul fatto che forse il tempo può anche non essere necessariamente danaro. E allora, visto che è venerdì e che cerco di dedicare a volte le puntate del venerdì proprio alla cultura, ho con me ai microfoni di America 24, proprio per parlare di certi aspetti culturali legati al tempo e al danaro, Claudio Magris. Buongiorno Magris. Buongiorno a lei. Allora, scusi, ma lei ha provato a dirlo a Wall Street che time is no money? Come reagirebbero secondo lei? Wall Street no, perché non ho molte relazioni con Wall Street. Gliele posso presentare qualcuno io, se vuoi. Una volta seriamente. Sì, seriamente. No, perché è un modo che tra l'altro mi interessa molto. Ora, in quella chiacchierata io ho soltanto fatto un esempio di questa cultura austro-mitteleuropea che, pur avendo sviluppato al suo interno anche una grande cultura economica, proprio ci sono stati grandi economisti, sono grandi studi sofisticati, è stata sempre riluttante a concepire l'economia come una visione del mondo, non parliamo poi l'unica visione del mondo, considerandola come una grande, importantissima, fondamentale scienza, ma in qualche modo, pur aggiornandola alle sofisticate tecniche moderne, la vecchia crematistica di Aristotele, l'economia è la scienza del padre di famiglia, il quale deve naturalmente saper lavorare, produrre, guadagnare, ma affinché la sua famiglia, e potremmo per famiglia dire lo Stato, la società, possa avere la possibilità di svilupparsi e di coltivare valori e interessi che non sono però necessariamente economici. Ci faccio un esempio concreto su questo fatto che il tempo non è necessariamente denaro. Diciamo che la sintesi può essere data da una famosa frase di Franz Werfel che diceva non vivere per lavorare ma lavorare per vivere, e cioè il vecchio austriaco, diceva Franz Werfel, non considerava che il tempo della vita dovesse essere speso per guadagnare, ma cercava all'opposto di guadagnare quel tanto di denaro che gli era necessario per godere il tempo della sua vita, l'unica cosa che ci è data e in cui possiamo amare, sentire, gustare, fiutare e così via. Questo è proprio come punto di partenza. Ecco, l'ideale ovviamente dovrebbe essere quello di fare un lavoro nel quale il confine tra lavorare per vivere e vivere per lavorare poi diciamo si attutisce, nel senso che è un lavoro gradevole che una persona ama fare e quindi pesa sì, di ma meno. Ma vede, io credo adesso che il problema non sia tanto il fatto di avere un lavoro a cui ci si sottomette magari tristemente perché si deve sopravvivere, è un lavoro invece nel quale ci si realizza, insomma, che si fa volentieri, perché l'esercizio di attività economiche io penso che possa essere affascinante. Io penso che anche il lavoro degli analisti di borsa, anche se molti hanno sottolineato il carattere quasi distruggente, alienante lavoro in borsa, io penso che il lavoro in borsa possa essere un lavoro creativo, ma qualsiasi lavoro idolatrato, anche scrivere tutto il giorno, se questo significa trascurare l'amore, il profumo del fiore fuori dalla finestra, il mare, per dire la cosa che più ama il mondo, può essere altrettanto alienante. Io non credo che di per sé il lavoro economico sia più alienante di altri lavori. Come ha trovato l'America? Lei è stata a New York, adesso... Ma guardi, vengo abbastanza spesso e devo dire che ogni volta ci si familiarizza un po' di più. Sì. Ieri sono stato col direttore dell'Istituto di Cultura Italiano di Chicago, Marchetti, in un liceo, una high school pubblica, alla periferia Belmont di Chicago. Gli studenti erano quasi tutti ispanici, alcuni musulmani, pochi, altri neri, pochi. E là è stato interessantissimo, perché devo dire, ho visto, si parla appunto dello stato penoso della scuola pubblica, poco, non dubito che ci siano delle situazioni che sono nel Bronx in cui veramente essere insegnanti in un liceo pubblico è una cosa eroica. Io sono stato colpito viceversa dalla vitalità, dalla serietà e questo mi ha fatto toccare con mano come in fondo l'ideale non debba essere quello spietato cammino che fin da certe scuole materne, scuole esclusive, scuole private molto costose, si fanno delle selezioni intellettuali perché si pensa che da lì comincia una strada che deve portare a Harvard, cosa che è una cretinata perché a 4 anni o 5 anni non si, insomma, è ridicolo fare dei test intellettuali. Ecco, io la scuola che ho visto ieri, questa scuola pubblica, mi pareva veramente un po' di essere in qualche modo non tanto lontano dal mio liceo, e questo mi ha confortato. È forse l'impressione più forte che ho avuto in questi pochi giorni passati. Sì, è vero. Certo che vedendo proprio qualcosa ammirabile che è il campus di Yale, quando appunto abbiamo detto che oltre le varie società, oltre i vari club esclusivi, eccetera, ci sono le società segrete, come quella in cui è frequentata da Bush Junior, società segrete in qualche modo riconosciute, no? Perché non sì. È che sia Al-Qaeda. Sì, sì. Che però in cui nessuno può entrare, nemmeno il presidente, insomma, se sono segrete a chi bisogna chiedere il permesso? Perché certo. Ecco, questo per il nostro gusto, qui mi sento, devo dire, lontano da questa mentalità proprio anni luce. Sì, queste società segrete sono in effetti dal mio punto di vista molto, molto brutte, ma servono per creare un certo cameratismo, un gruppo, questi sì, ragazzi certo. Giocano. Però... E ti sottopongono a dei test. Allora, questo mio amico proprio ieri mi raccontava che suo figlio è finalmente entrato in questa società segreta, diciamo la fraternity, le chiamano le fraternity, quindi le fratellanze, sì, sì. A Penn, che è un'università a Filadelfia, e lui è riuscito a entrare, ma come test per entrare, a qualunque ora del giorno e della notte, e lui doveva fare il cameriere, cioè doveva servire gli altri membri della fraternity, e se non si presentava a qualunque ora del giorno e della notte in tempo e in modo perfetto, non sarebbe stato ammesso. Lei capisce che per uno come me, che insieme a mio amico Gabrielli, quando siamo andati all'esame di maturità molto difficile nel 57, abbiamo portato di nascosto un ritratto rispettivamente di Garibaldi e di Mazzini, e traducevamo dal greco fingendo di copiare dal foglio nascosto, finché il presidente trionfante mi strappò il foglio convinto di trovare la traduzione Tucidide, e invece trovò il volto che giammai non rise, Mazzini, sullo sfondo del cimitero italiano. Io gli dissi: so che è vietato, ma io ne trago conforto. E beh, devo dire, insomma, preferisco aver fatto quella scuola che non dover essere svegliato alle 2 del mattino a fare il cameriere, che avrebbe tirato fuori un certo turpiloquio triestino da parte mia abbastanza colorito. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vi visita in tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Il 10 maggio 75 Stevie Wonder suonò a sorpresa al concerto gratuito organizzato a Human Kindness Day. Siamo all'anniversario e dunque di Stevie Wonder, Superstition. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.